Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo e partiremo dalla Spagna, il ministro spagnolo che infatti oggi ha dichiarato, attenzione, senza i soldi dell'Europa non saremmo riusciti a pagare gli stipendi e non saremmo stati in grado comunque di garantire prestazioni minime. Lo ha detto, ripeto, il ministro Montoro, che è il ministro del bilancio spagnolo: sono finiti i soldi, saremmo falliti senza la Banca Centrale Europea. Tra l'altro oggi la Spagna ha venduto delle obbligazioni con scadenza 2014, 2017, 2019 per 3 miliardi, però i tassi sono balzati al 5,2% e il BTP spagnolo a 10 anni è oltre il 7% nel mercato secondario. Dopo l'asta, il 7% viene considerato di solito lo spartiacque tra quando puoi ripagare il debito che hai contratto e quando invece rischi di diventare insolvente. Parleremo anche della Sicilia nella seconda ora del programma, perché varie dichiarazioni oggi, tra ieri soprattutto, ma anche oggi, del governatore Lombardo. In realtà parleremo anche con un forestale della regione Sicilia. Sapete che la regione Sicilia ha, tra le altre caratteristiche, 28.000 forestali contro i 70.000 forestali che sono presenti in tutto il paese, per cui quasi la metà, più di un terzo, sono in Sicilia. E poi anche un'analisi che era presente oggi sul Sole 24 Ore da parte dell'economista Massimo Bordignon, e cioè com'è possibile che, insomma, si arrivi davvero ad accumulare un buco del genere. Io ho capito che il presidente Lombardo dice: ma con quello che è il nostro PIL siamo messi meglio dell'Italia, con la piccola differenza che cercavamo di spiegare ieri, che mentre la Sicilia, qualunque buco faccia, poi verrà ripianato dallo Stato centrale, a meno che non si voglia aumentare in maniera incredibile la tassazione dei residenti in Sicilia, l'Italia, se vede aumentare il suo debito, non è detto che qualcuno glielo paghi, come vediamo in questi mesi. Non è detto che possa trovare un sottoscrittore estero. Ecco perché si dice l'Italia teoricamente può fallire, ma la Sicilia no, perché di solito le regioni vengono, i bilanci regionali vengono ripagati dallo Stato nazionale. Ma dicevo, anche la domanda su dove fossero gli organismi che devono vigilare su questi sprechi e spese sarà l'oggetto della seconda ora del programma. Parleremo anche dell'Ilva di Taranto. Si sta cercando un accordo di trovare la quadratura del cerchio per l'Ilva di Taranto, i cui stabilimenti rischiano di essere bloccati dall'inchiesta anche della magistratura. Perché? Perché ne parleremo fra poco. C'è un'accusa molto pesante, è oggetto di indagini sull'inquinamento, è un'accusa di disastro colposo e doloso. Sono indagati gli ex presidenti dell'Ilva Emilio Nicola Riva, l'ex direttore del siderurgico pugliese Luigi Capogrosso. Però l'Ilva di Taranto e un suo sequestro vorrebbero dire 5.000 operai disoccupati, quelli che lavorano nell'area a caldo dello stabilimento, la più inquinante. E comunque effetti pesanti anche sull'indotto e sul resto dei dipendenti. C'è stato un incontro oggi a Palazzo Chigi proprio per trovare dei soldi che permettano allo stabilimento di mantenere l'attività e quindi di essere aperto, di bonificare, diciamo così, l'area. E poi la Confcommercio, che oggi in un rapporto stima nel 55% la tassazione effettiva in Italia, la più alta al mondo, dice la Confcommercio. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve. La borsa più 0,46% Milano, più 0,80% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,40% Londra e più 0,20% l'America. Da noi c'è un calo molto forte per quello che riguarda Telecom Italia, che perde l'8% in questo momento a 68 centesimi di euro. Le autorità brasiliane infatti hanno bloccato la possibilità per Telecom di siglare nuovi contratti in Brasile. Male anche Autogrill, il titolo però era molto salito, meno 3,65%, Diasorin meno 2,20%, Pirelli meno 1,21%. Bene invece il settore del cemento, bene anche Parigi e Francoforte, da noi Buzzi Unicem guadagna il 6,11%, e poi bene alcune banche, la Popolare di Milano più 4,60%, il Banco Popolare più 3,70%, sono recuperi dopo cali anche insistenti nei giorni scorsi. ST Microelectronics di nuovo bene, dopo il guadagno di ieri beneficio oggi del balzo di Nokia, che è il principale cliente di ST Microelectronics, balzo fatto oggi in doppi conti diffusi da Nokia, più 3% dicevo, Unicredit più 2,90%, Luxottica più 2,80%, Fiat più 2,70%, Tod's più 2,35%, come anche UbiBanca, Ansaldo più 2,15%. L'oro $1,580 l'oncia, il petrolio in rialzo a $90,77 al barile. Dall'America arriva un dato sulla banca d'affari Morgan Stanley, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile in calo del 50% a causa di perdite, quindi da 1,190 milioni è passata a 590 milioni a causa delle perdite legate al trading, quindi all'attività di compravendita su azioni e obbligazioni. Lo scorso 30 giugno la banca americana aveva un'esposizione netta di 2 miliardi 250 milioni sul mercato italiano, quindi era investita per 2 miliardi 2 sul mercato italiano e per 1 miliardo e 600 milioni su quello spagnolo. Sì, giustamente fa notare un ascoltatore perché la soglia del 7% viene considerata critica, cioè la soglia quasi da non ritorno se devi offrire il 7% come paese per trovare finanziatori per il tuo debito. Beh, perché vuol dire che in 10 anni vai quasi a raddoppiare il capitale, no? Per cui insomma inizia a essere un tasso difficilmente pagabile, non c'è nessuna certezza scientifica, però si dice comunemente che oltre il 7% si vada in un punto di non ritorno. Arriviamo adesso all'asta dei titoli spagnoli, bene l'asta invece in Francia, come va lo spread italiano? È altissimo, ancora alto, 478 punti, la Spagna invece come differenza con la Germania è a 571 punti, il centro studi di Confindustria dice sono ingiustificati i 300 punti di spread italiani. Io ricordo che prima dell'attacco speculativo, diciamo, all'area euro, cioè un anno fa, ancora a aprile-giugno del 2011, il nostro spread viaggiava su 200-180-220 punti. E ripeto, se qualcuno mi dice che il paese è così peggiorato da beccarsi quasi 300 punti in più, è una balla, no? Nel senso che non è che un anno fa stessimo meglio, il problema è che nel frattempo è peggiorata la percezione dell'area euro e la possibilità di una sua tenuta, grazie anche a dichiarazioni come quella del Fondo Monetario di ieri. Comunque, tornando al rapporto del Centro Studi Confindustria, la Confindustria dice che lo scudo antispread è l'unico rimedio efficace contro appunto l'aumento degli spread, pesa sull'Italia l'incertezza sul dopo Monti e poi fa un calcolo di quanto ci costa questo benedetto spread. Sta causando, cioè, questi 300 in più, punti in più rispetto a quanto valevamo prima dell'attacco, cioè noi dovremmo avere uno spread sui 170-180 punti, questi 300 punti in più costano quasi un punto percentuale di PIL in più, cioè ci costano in interessi da pagare per trovare compratori per i nostri bot BTP, un punto percentuale di PIL, dice Confindustria, è pari a 144.000 posti di lavoro. Noi paghiamo in sostanza quasi 13 miliardi in più, pagheremmo di interessi sul debito per colpa di questi 300 punti di spread. Dati sulle imprese, a maggio il fatturato cala dello 0,5%, ma gli ordinativi crescono dell'1,7% rispetto ad aprile, però rispetto a un anno fa il dato è brutto, meno 2,7% il fatturato, meno 9,5% gli ordinativi industriali a maggio del 2020. del 2012 rispetto a maggio del 2011. Sono arrivati gli emendamenti alla spending review, alla revisione sulla spesa pubblica, 1800 emendamenti, 600 del PD e altrettanti del PDL. La bozza dell'economista invece Francesco Giavazzi vedrebbe, quella che deve ridefinire anche le agevolazioni alle imprese, vedrebbe sostanzialmente eliminate 40 agevolazioni alle imprese. La creazione di un salterebbe alcuni incentivi alle imprese artigiane fino ai fondi per aiutare le imprese in difficoltà, arriverebbe un fondo unico per le imprese e gli incentivi alle imprese che sopravviveranno alla razionalizzazione saranno comunque certificati. E poi la revoca per tutti gli incentivi alle imprese che non sono che sono stati erogati ma non utilizzati o che assegnati non sono ancora stati erogati. Su questo ha chiusato il ministro Corrado Pass, l'ha detto non è più il tempo né per lussi né per sprechi. È un paese che sta chiedendo a tutti sacrifici inevitabili, deve trovare in un corpo come questo un esempio di farsi avanti per trovare tutte le fonti di spending review, che non vuol dire solo tagli, vuol dire che certe cose devono addirittura essere valorizzate e avere più risorse a disposizione, ma certamente non c'è più tempo né per lussi né per sprechi e certamente è il momento di rivedere, di razionalizzare senza naturalmente ridurre il servizio e di integrarsi. Il rapporto Confcommercio che stima nel 55% la pressione fiscale reale nel paese, definendolo appunto un record mondiale, parleremo più avanti. Invece adesso parliamo di Sicilia e poi anche di questo, dei conti della Sicilia, parleremo nella seconda ora. Però il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, è tornato, ha parlato a margine del processo per reato elettorale che si sta celebrando a Catania, a dire che chi ha scritto che siamo al crack o al default e che la Sicilia è fallita, come alcuni giornali hanno fatto ieri a 9 colonne, sarà denunciato e pagherà danni civili sicuramente salati. Poi ha detto che il presidente Monti ha fatto il suo dovere, però noi facciamo notare un paio di piccole cose al presidente Lombardo. La prima, Bruxelles ha bloccato fino ad oggi 1,3 miliardi di finanziamenti regionali destinati all'Italia, alle aree più depresse. Perché, poi lo scopriremo, ci sono tra l'altro anche i fondi per la politica regionale della Commissione per la Sicilia, 180 milioni, la Sardegna 140 milioni, il programma Policultural Turismo 108 milioni, per la Calabria altri 190 milioni bloccati. In realtà faccio presente che dal 2000 al 2013, per parlare solo della Sicilia, sono arrivati fondi comunitari per 20 miliardi stanziati, 20 miliardi. La Sicilia, nonostante i 18.000 dipendenti più gli altri 20.000 precari, quindi stiamo parlando di cifre che sono 4-5 volte quelle delle regioni normali in Italia, compresa la Lombardia, non è riuscita a spenderli questi soldi. Magari il presidente Lombardo ci potrebbe fare la cortesia di spiegarci perché è riuscito a spendere in 13 anni su 20 miliardi quasi 2 miliardi, cioè nemmeno il 10%, il 9%. E cosa ha fatto Bruxelles a questo punto? Ha bloccato 600 milioni destinati alla regione Sicilia, rimborsi relativi a spese già sostenute, ha minacciato di revocare l'intera quota dei fondi europei, pari a 6 miliardi e mezzo per questo giro, per irregolarità nell'assegnazione degli appalti e carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. Allora uno dice, cosa saranno queste carenze? Andiamo a bomba sulla nostra rubrica, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Vediamo come ha utilizzato i fondi europei la regione Sicilia. Qui mi servirebbe però di nuovo una bella ballata della Maiella, qualcosa del genere, no? Eccoci. Allora, qui indaga addirittura la Procura di Palermo. Tra i possibili scenari c'è anche l'ipotesi di una quota dei finanziamenti europei destinati alla Sicilia che è stata girata al pagamento di appartamenti ed escort. Non ho capito se appartamento con escort o appartamento ed escort, però Anche l'OLAF, l'organismo europeo antifrode, ha aperto un procedimento. L'inchiesta punta il dito su presunti cartelli anomali creati per accaparrarsi milioni provenienti da Bruxelles, milioni apparate provenienti da Bruxelles e spesi per realizzare manifestazioni sportive e culturali. Allora, vada per i mondiali di scherma, 5 milioni di euro, vada per la settimana tricolore di ciclismo, 1 milione e 2, vada per il torneo di golf, il Sicilian Open, costato 8 milioni, 8 milioni per un torneo di golf, 8 milioni, palline d'oro. Vabbè, ma con i soldi di Bruxelles la regione ha realizzato anche il Couscous Fest, due sfilate di moda tra Palermo e Taormina e una manifestazione di pentathlon. Perfino il tradizionale festino di Santa Rosalia a Palermo ha avuto un finanziamento europeo. Non si capisce perché. Bruxelles ha anche chiesto chiarimenti sulle procedure che hanno portato a finanziare la ristrutturazione di un bar a Rocca Lumera, in provincia di Messina, con i fondi europei. Stiamo dire in Sicilia, stiamo parlando della realizzazione del presepe vivente di Agira, in provincia di Enna. Poi ci sono casi interessanti. Un agiografo portatile, comprato dall'ospedale Cannizzaro di Catania, è stato pagato 240.000 euro. Peccato che mediamente ne costi 156.000. Come la mettiamo? Torneremo a parlare nella seconda ora, però abbiamo anche qualche notizia su questa crisi che riguarda la regione Lombardia. Ma cos'è questa crisi? Eh sì, perché nonostante quello che sta travolgendo anche il presidente della regione Lombardia, quindi le cene stralusso, fette da Facenede da Co, i soldi, il magistrato sta indagando, la giunta Formigoni tornerà a finanziare il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, in programma dal 19 al 25 agosto. Dalla regione Lombardia arriveranno al meeting, pensate, 85.000 euro, senza contare gli spazi pubblicitari che le società controllate potrebbero decidere di acquistare autonomamente. Nel lungo elenco di motivazioni si dice che questo investimento servirà a promuovere l'immagine turistica della regione Lombardia nei diversi segmenti. E vabbè, qui non faccio pubblicitario, però promuovere l'immagine della regione Lombardia al meeting di CL, vabbè, anche perché Comunione Liberazione è fortemente presente in Lombardia, quindi immagino che molti dei suoi associati conoscono Lombardia essendo cittadini lombardi. La cosa interessante è che, tra l'altro, al momento della presentazione ufficiale dell'edizione del meeting di Rimini un mese fa, Roberto Formigoni non risultava nell'elenco delle personalità invitate a parlare. Ieri però è arrivato il definitivo via libera, ci sarà. E adesso un'altra notizia su cos'è questa crisi, che farà arrabbiare moltissimo gli ascoltatori, perché riguarda i nuovi vertici RAI. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor! Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. Allora, massimo rispetto e anche per la professionalità dei nuovi vertici della RAI, presidente Tarantola da un lato e il nuovo direttore generale dei Gubitosi. Però io vorrei capire, anche perché c'era la famosa legge che poi non viene mai implementata sui tetti ai manager pubblici, come mai, stando a quanto stanno anticipando fonti RAI, i due guadagneranno più di 1 milione di euro di compensi, 650.000 euro per il direttore generale Gubitosi, che sono la somma tra 400.000 euro lordi più per l'assunzione a tempo indeterminato con un fisso, più 250.000 euro per l'incarico di direttore generale, mentre il presidente Tarantola guadagnerà 430.000 euro, un trattamento simile a quello che aveva a Banca Italia, devo dire, al predecessore Garimberti. Ora, il punto non è quanto guadagnassero i presidenti prima, perché sappiamo tutti che guadagnavano tanto, però si era detto che c'era il tetto per i manager, c'è la crisi, aumentano le pensioni, si innalza l'età pensionabile, abbiamo gli esodati, aumenta l'IVA, aumentano le addizionali regionali, e adesso vedremo cos'altro faremo, forse un segnale dalla RAI, che non mi sembra, lo dico con massimo rispetto per i colleghi, la migliore delle aziende quanto a gestione in questo paese, poteva anche arrivare, o no? Vabbè, parliamo di Spagna, che... Francia o Spagna in questo caso non si può dire, che ha dei suoi bei problemi, visto che il ministro alle finanze dice: attenzione, senza gli aiuti europei non saremmo riusciti a pagare i servizi pubblici. 349-238-6666 per i vostri sms. Con la nostra ballata dell'euro introduciamo il primo tema, la Spagna. Allora, domani vi sarà il vertice Eurogruppo dei ministri economico-finanziari dell'area euro, però oggi il ministro del bilancio spagnolo Cristobal Montoro ha rilasciato delle dichiarazioni allarmanti, tra l'altro nel giorno del voto decisivo al Bundestag, quindi alla Camera tedesca, sugli aiuti a Madrid. Ha detto sostanzialmente Montoro: i soldi sono finiti, la Spagna non ha un soldo in cassa per pagare i servizi pubblici, e se la Banca Centrale Europea non avesse comprato i nostri titoli di Stato il paese sarebbe fallito. La Spagna ha venduto oggi un'asta titoli di Stato, i tassi sono saliti, la domanda è calata moltissimo e ormai i BTP spagnoli rendono oltre il 10%. Dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il Falco, ha detto: attenzione, la situazione finanziaria delle banche spagnole costituisce un rischio potenziale per gli altri paesi dell'area euro se non si interviene velocemente. Bravo, fatelo, visto che siete voi che dovete muovervi. E poi il portavoce del commissario europeo agli affari economico monetari, Olli Rehn, ha detto: i 100 miliardi che abbiamo messo a disposizione come Eurogruppo alla Spagna serviranno solo per ricapitalizzare le banche, non per fare altro debito, non per coprire il debito spagnolo. In questo caso infatti occorrerebbe una nuova richiesta. Ci colleghiamo con Luca Veronese, Sole 24 ore. Luca, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, per essere proprio trasparenti, quanto c'è di tatticismo in queste dichiarazioni del ministro al bilancio spagnolo, visto che appunto al Bundestag si stanno votando gli aiuti a Madrid e domani ci sarà un vertice Eurogruppo? Cioè, quanto c'è di allarme creato per far capire quanto grave è la situazione, per influenzare tra virgolette il voto? Allora, la situazione spagnola è gravissima, questo al di là del ministro Cristobal Montoro, che ci ha già abituato da tempo a esternazioni o affermazioni molto pesanti, anche al limite, diciamo, per uno nella sua posizione. E è gravissima perché è evidente ormai sui mercati, ma anche nei report degli analisti, che il salvataggio delle banche promesso e concordato con l'Unione Europea, che arriverà domani al passaggio definitivo, quindi 100 miliardi per salvare le banche spagnole, non risolveranno i problemi della Spagna, che ha pesanti problemi derivanti innanzitutto dalla mancanza di crescita e a ruota dai disequilibri nei conti pubblici, l'incapacità di centrare gli obiettivi di bilancio concordati in Europa. Quindi gravissima la situazione. In tutto questo Montoro ci mette il carico, ci mette il suo, e come dicevi giustamente tu, facendo tattica, guardando da una parte all'interno, perché la Spagna ha un grosso problema di contenimento della spesa pubblica, che è per più di un terzo in mano alle regioni e che Montoro non può controllare quindi direttamente. Per questo dice, piange dicendo non ce la faremo mai, di modo che anche le regioni accettino i tagli imposti da Madrid. Dall'altra parte, in Europa, deve presentarsi come se ormai sono arrivati a quel punto, a un passo dal baratro, e quindi non hanno più niente da perdere, come se appunto la Spagna potesse fallire da un momento all'altro e quindi l'Europa, per non andare a gambe all'aria tutti assieme, dovesse decidere subito un aiuto o degli altri aiuti per la Spagna, che secondo quanto vorrebbe Montoro dovrebbero arrivare solo o comunque nella gran parte dalla BCE, l'unica istituzione secondo Madrid in grado di sostenere il debito spagnolo. Allora, tu citavi il fatto della difficoltà spagnola. Oggi la Spagna ha collocato, lo ricordavo, quasi 3 miliardi di bot in asta, ma ha avuto rendimenti molto alti e domanda molto bassa, non è un bel segnale, con un rendimento dei BTP a 10 anni spagnoli che va sopra il 7%. Però al di là della vicenda di Bankia, e cioè quindi l'insieme di quelle casse di risparmio regionali che si erano sovraesposte per concedere mutui, il mercato immobiliare spagnolo ha fatto un boom prima e adesso una botta senza precedenti, quindi queste banche si sono trovate scoperte avendo finanziato mutui a un valore diverso. I due principali gruppi bancari spagnoli, Santander e Bilbao, sono gruppi solidi, cioè vorrei capire se il problema sia solo le banche medio-piccole che hanno finanziato mutui per un mercato immobiliare che continuava a salire e adesso è crollato, oppure ci sia dell'altro, Luca? Tutta l'economia si è gonfiata in modo non sostenibile per almeno un decennio. E giustamente tu sottolinei che i due principali gruppi bancari spagnoli sono sani e così è. Nessuno lo dubita, però vengono accomunati e vengono mescolati in un sistema finanziario che ha dei problemi seri di fondo. E sono, è vero, solo le casse di risparmio, ma le casse di risparmio non sono delle piccole entità che hanno qualche problema sanabile in modo così indolore, sono dei grossi gruppi bancari che rappresentano una grossa presenza sul territorio e una commistione tra poteri politici e economici forse senza precedenti ormai almeno in Europa. La Bankia, questo conglomerato di sette casse di risparmio, nasce da Caja Madrid, che era la quarta banca del paese, e ha creato delle voragini che nessuno si aspettava. Questo è forse anche il problema in più della Spagna, che senza arrivare ai livelli greci di poca trasparenza e confusione nei conti pubblici, ha comunque nascosto delle debolezze sia nel bilancio pubblico ma soprattutto nei buchi dei bilanci bancari, che ormai hanno creato una mancanza totale di fiducia da parte degli investitori. E questo è appunto il problema, anche accomunare due banche, obiettivamente per quello che vediamo molto solide come il Banco di Bilbao Vizcaya e il Santander, con il problema generale del paese che ha appunto viene da una recessione anche pesante e continuerà a essere in recessione. Che cosa ti aspetti per concludere, Luca, che chieda domani alla Spagna a questo punto? C'è questo tentativo di utilizzare i 100 miliardi non solo per il salvataggio delle banche, che si stima intorno ai 50-60 miliardi, ma anche per sostenere il debito pubblico sul mercato secondario, quindi per far abbassare un po' i rendimenti sul mercato secondario. E, diciamo che se dobbiamo stare alle parole di Montoro, è vero anche che questo ministro del bilancio è un interno al Partito Popolare, personaggi che si vedevano anche da noi, almeno nella Prima Repubblica, è sempre stato bravo a piangere miseria, ma anche è stato Cassandra in passato. Se è vero che all'inizio di giugno è stato il primo tra i ministri a dire che la Spagna avrebbe avuto bisogno di aiuti internazionali, per poi appunto vedere avverarsi questa sua giusta profezia, perché nel giro di un mese sono arrivati gli aiuti alle banche. Quindi il timore mio, ma non è il mio, è quello dei mercati, degli investitori e di tutta l'Europa, è che dopo questo salvataggio delle banche arrivi e sia necessario anche un salvataggio sovrano per la Spagna, e questo sarebbe davvero un passaggio chiave, un escalation difficile da controllare per tutti. ...17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Prima di arrivare alla borsa, adesso parliamo della vicenda Ilva di Taranto, perché è una vicenda molto delicata. Da un lato c'è infatti un'indagine sull'inquinamento causato dallo stabilimento Ilva di Taranto. È uno dei più grandi impianti industriali italiani, ha 12.000 dipendenti e pesa per l'80% sulle attività del porto di Taranto, e quindi l'indagine sull'inquinamento è un'accusa di disastro colposo e doloso ai vertici dell'azienda. E tra l'altro una perizia sanitaria ed epidemiologica ha stabilito un nesso causale tra la morte di circa 400 persone in 13 anni e l'inquinamento provocato dall'Ilva. Dall'altra parte però, se si sequestra l'Ilva di Taranto, si mettono sul lastrico per strada 5.000 persone, 5.000 operai, quelli che lavorano nell'area più inquinante, l'area a caldo dello stabilimento, con effetti pesanti anche sul resto dei dipendenti, incluso l'indotto. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. voglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. E oggi c'è stato un incontro a Palazzo Chigi per trovare circa 190 milioni di euro. Le cifre sono ancora incerte, ma il governo avrebbe individuato 156 milioni come prima dote nazionale, poi altri 90. La regione metterebbe sul piatto 100 milioni e ha chiesto al governo di metterne il doppio, perché per mantenere, se ho ben capito, aperto lo stabilimento e allo stesso tempo avviare un'opera rapida di bonifica e recupero ambientale. Siamo in collegamento con Taranto, dove c'è Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore. Domenico, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Sì, il Verge di oggi ha riguardato soprattutto le bonifiche, cioè cosa fare per disinquinare l'area di Taranto. Giorni fa la regione ha annunciato la sua disponibilità a mettere in pista 100 milioni di euro e ha chiesto al governo uno sforzo doppio, quindi 200 milioni di euro. Si sta ragionando adesso su quali cifre mobilitare, siamo in quest'ordine di grandezza. Il 26 ci si rivedrà a Roma per chiudere l'accordo di programma con tutti i soggetti chiamati in causa, ma soprattutto questi giorni serviranno a individuare meglio le somme da mobilitare e dove prelevarle. Si è definito di individuare una serie di aree su cui concentrare i primi interventi di disinquinamento e bonifica ambientale, che sono il Mar Grande e il Mar Piccolo di Taranto e alcune aree dei Tamburi. I Tamburi sono un quartiere della città di Taranto, che è quello più vicino all'Ilva e quindi il quartiere che soffre di più gli effetti dell'inquinamento. Ecco, i soldi che noi citavamo, perché oggi appunto c'è stato questo incontro a Palazzo Chigi, il vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno Alessandro Laterza ha chiesto e ha ricordato come l'Ilva sia un pezzo fondamentale del sistema industriale italiano e quindi va salvaguardato anche il sistema produttivo. Lo chiedono anche i sindacati, va detto sia la segretaria CGIL Camusso che quello della UIL Angeletti. Alla fine, secondo te, la cifra di 190 milioni complessivamente potrebbe essere quella in grado di mettere in sicurezza, cioè di iniziare l'opera di bonifica, diciamo, e non chiudere? Sì, è una prima dote per avviare l'intervento di bonifica. Per la bonifica occorrono molti più soldi, non stimabili in questo momento, però bisogna pur cantierizzare questo intervento che è corposo e significativo. Diciamo che l'intervento della bonifica è uno dei tre passaggi che si sono costruiti in questa settimana. Questa è stata una settimana molto importante perché la regione ha varato una legge che introduce una nuova stretta sulle emissioni inquinanti, anche se questa legge è anche contestata in qualche modo dal fronte imprenditoriale, perché introduce vincoli nuovi ad un quadro normativo che è già vincolistico. La regione ha poi definito con l'ARPA Puglia, che è l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, un piano per proteggere il rione Tamburi dagli effetti dell'inquinamento, intervenendo sulla limitazione delle polveri. Infine il passaggio di oggi, che è il tavolo sulle bonifiche. L'elemento importante è che il tavolo di oggi ha rilevato che il problema a Taranto è un problema nazionale. Prima tu dicevi 5.000 persone dell'area a caldo, sì è vero, poi bisogna aggiungere quelle dell'indotto, ma non bisogna dimenticare cos'è l'Ilva nel sistema industriale produttivo nazionale. Le produzioni di Taranto alimentano le attività di tante imprese manifatturiere ed è ovvio che una chiusura, un blocco di questa azienda avrebbe poi ripercussioni a catena molto gravi, di qui appunto la presa di coscienza e la mobilitazione dei livelli sindacali, istituzionali e politici. Minuti, di nuovo in diretta. Allora, la borsa e poi le tasse degli italiani e poi la regione Sicilia. Bene, oggi devo dire tutte le borse europee, nel caso specifico Milano più 0,50, Parigi più 0,80, Francoforte più 1,1, Londra più 0,40%, euro a quota 1,2256, bene Buzzi Unicem più 6,31, alcuni bancari male oggi, malissimo Telecom Italia meno 7%, borsa. Come sempre con Radio Colli sulle 24 ore, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Problemi brasiliani per Telecom, meno 7%. Sì, assolutamente sì, il titolo ha chiuso a meno 7%, è arrivato a perdere anche oltre l'8% durante la giornata. Il titolo quindi ha risentito della decisione dell'autorità brasiliana di bloccare per Telecom, quindi per Team Brasil, la sigla di nuovi contratti con la clientela in 19 stati su un totale di 27. Questo come forma di sanzione contro investimenti non effettuati. La stessa decisione, ricordiamo, è stata presa anche per gli operatori Oi e Claro, sempre in Brasile. E questo per quello che riguarda Telecom Italia. Sul fronte opposto invece abbiamo un ottimo dato per Buzzi Unicem, che fa il paio con il buon andamento di tutto il settore del cemento sia a Parigi che a Francoforte. Sì, infatti il titolo ha seguito il rialzo del comparto con la Farge, soprattutto dalle attese per i conti di Heidelberg Cement a Francoforte. Gli operatori si aspettano appunto per la società tedesca risultati positivi grazie al mercato americano, dove il consumo di cemento nei primi 5 mesi del 2012 è salito del 18,6% grazie anche al dollaro forte, quindi di questo ha beneficiato appunto Buzzi Unicem, che ha realizzato la migliore performance oggi sul FTSE MIB. Altri titoli, bancari possiamo citarli, è vero che erano molto calati, ma sia Pop Milano più 4,30 che il Banco Popolare oggi fanno più 3,60%, a cui si somma Unicredit più 2,66%, Ubibanca più 1,90%. Sì, infatti le banche oggi hanno recuperato terreno grazie anche ad un allentamento della tensione sul mercato dei titoli di Stato italiani. Per quanto riguarda Ubi vi è una notizia, nel senso che ieri la società ha annunciato il piano di ristrutturazione che prevede un ridimensionamento del personale di 1.500 dipendenti e la chiusura di 44 sportelli. Questo piano dovrebbe portare ad un impatto di oltre 115 milioni di euro di riduzione di costi annui a partire dal 2014 e 70 milioni già a partire dal prossimo anno. Ancora ST Microelectronics, ieri forte, molto forte, ma anche oggi non ha scherzato, è il secondo, no, dico una cavolata, è il quinto miglior titolo sull'S&P MIB, più 2,70%, qui pesa Nokia. Sì, assolutamente, nel senso che ieri il titolo ha beneficiato dei conti, o diciamo della perdita inferiore alle attese della joint venture di ST Ericsson. Oggi invece il titolo ha beneficiato del buon andamento del comparto tecnologici, che in Europa ha guadagnato il 2,60% in scia ai conti di alcune società americane come IBM e Intel, ma anche e soprattutto grazie a Nokia, che a Helsinki ha guadagnato oltre l'11%. La società ha mostrato una perdita in rialzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma i conti sono comunque risultati superiori alle attese, quindi il titolo ne ha beneficiato. E infine chiudiamo con i migliori e peggiori, come sempre facciamo nell'appuntamento di borsa. I migliori e peggiori oggi si chiamano Fondiaria Sai più 20,9%, Nokia Corporation più 11,50%, Fondiaria Sai sul risparmio più 9,60%, il peggior titolo è Telecom Italia Media sul risparmio meno 15% e poi Telecom sull'ordinario, abbiamo detto, Unipol meno 9,20%. Allora, Fondiaria Sai e Unipol. Sì, allora oggi ricordiamo che è il quarto giorno dell'aumento di capitale, sia per Fonseca Unipol è iniziato lunedì. E diciamo che la cosa che possiamo notare è che continuano le vendite sui diritti, nel senso che i diritti Unipol sulle ordinarie hanno perso il 52%, sulle privilegiate più o meno il 23%, su Fonsai oltre il 40%, sulle ordinarie il 28%, sulle risparmio. I titoli invece hanno mostrato oggi un andamento contrastante, in rialzo quindi Fonsai, mentre Unipol sulle ordinarie ha perso il 9%. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi, prima di tornare sulla vicina Sicilia, ci occupiamo di quanto oggi ha segnalato la Confcommercio. Ha detto sostanzialmente che in Italia il peso reale del fisco non è del 45,2% come il dato statistico riporta, ma è del 55%, ossia un record mondiale. ...55% di pressione fiscale in realtà. Tra l'altro oggi, sempre nel corso del convegno della Confcommercio, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Beffara, ha detto: attenzione, chi non evade, la maggioranza silenziosa che non evade, sopporta una pressione fiscale in alcuni casi anche superiore al 55%. Qualche imprenditore, ha aggiunto Beffara, mi ha parlato anche di una pressione fiscale che arriva al 70%. Dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. Oh, bello pimpante. Senta, Bella, ma come siete arrivati al 50, a calcolare il 55% di pressione fiscale? Molto semplice, basta fare 0,45, che è la pressione fiscale, diciamo, quella apparente, cioè la somma di tasse, contributi, imposte diviso il PIL, e questo punto 45 lo dividiamo non per il PIL totale, diciamo, non per uno, ma per la frazione di PIL emerso, cioè per la frazione di PIL su cui si pagano le imposte. Siccome il sommerso economico è 17,5%, dato ufficiale dell'Istat, riferito al 2008, noi per neutralità l'abbiamo tenuto costante, dividendo 0,45 per 0,825, cioè per la parte di PIL che paga le imposte, abbiamo la frazione di imposte che pagano i contribuenti. Posso provare a spiegare? 45. Cioè sì. voi dite... La pressione fiscale statistica, quella che dice che da noi è a 45,2%, è una media su tutto, sul PIL, però tiene dentro anche il PIL sommerso, no? Il nero. Allora, esatto. Siccome notoriamente chi fa nero le tasse non le paga, levando la parte di nero, e cioè questi 154 miliardi, e dividendo a quel punto la vera pressione fiscale sull'emerso, non si è a 45% di pressione fiscale, ma addirittura al 55%. Però, Bella, lei rappresenta la Confcommercio, questo è un paese che ha 154 miliardi, voi calcolate, di imposta evasa. Di imposta teorica evasa, certo, e deriva dagli stessi calcoli che abbiamo fatto prima. In realtà questo è un dato che comunque... in qualche misura era noto, la Corte dei Conti ha parlato di 120 miliardi, a noi con queste meccaniche ipotesi arriviamo a 150, effettivamente sono cifre mostruose, sono cifre enormi che testimoniano l'endemicità e la trasversalità del fenomeno evasivo ed elusivo. Mi dica un'ultima cosa perché ho una manciata di secondi, avete calcolato un eventuale ulteriore aumento dell'IVA quanto costerebbe in termini di consumi reali, cioè di domanda interna? Ma diciamo che complessivamente con quei due punti che sono stati posticipati al 1 luglio, noi stimiamo tra il 2011 e il 2014, quindi il complesso delle manovre dell'IVA, una riduzione dei consumi di circa 35-40 miliardi di euro a prezzi costanti. Ma in questi tre anni o in un anno solo, mi scusi? Nel complesso dei tre anni, certo. Beh, comunque voglio dire, considerando che il 2012 probabilmente sarà l'anno peggiore della storia repubblicana in termini di riduzione dei consumi reali pro capite, ecco, questo, fatta questa considerazione, diciamo che si capisce che l'IVA è meglio non toccarla. Tra l'altro io non ho mai capito perché in questo paese l'unica politica fiscale che funzioni è aumentare le tasse. Forse bisogna fare una riflessione su questo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora parliamo di nuovo di Sicilia, perché il governatore Raffaele Lombardo è tornato a sottolineare che non c'è rischio crack per la regione. Il prossimo martedì ci sarà comunque l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Monti e il governatore per capire anche, come ha chiesto Monti, se conferma le sue dimissioni per fine luglio. E ad assicurare che non c'è alcun rischio di fallimento per la Sicilia è stato questa mattina ai microfoni di Alessandro Milan, 24 mattino, il vicepresidente della regione siciliana Massimo Russo, che ha detto, insomma, ma qui si fa tutto questo allarmismo per qualche euro. Credo che le fonti governative di cui le agenzie hanno dato atto già ieri sera fanno cadere questa mistificazione grottesca che è stata montata per aggredire la Sicilia per finalità che sono tutte politiche. Ma montata da chi? La Sicilia ha avuto soltanto un problema di tensione finanziaria legata alla mancanza di qualche euro in cassa per crediti che vanta nei confronti dello Stato. Ieri sera è stato detto che saranno rimessi a breve 400 milioni di euro. Infatti. E altri arriveranno, e si tratta di crediti che vanta la Sicilia, quindi non sono né concessioni né sforzi che fanno le altre persone. Però vicepresidente, vorrei capire, lei ha parlato di qualche euro, in realtà l'indebitamento, credo anche da lei confermato, è di un'esposizione totale al momento di 5,3 miliardi di euro, questo è il dato oggi ribadito anche dal Sole 24 Ore, sì, è così? Ma se lei ha uno stipendio di 27 mila euro e si indebita per 5.200 euro, non è che i suoi debitori le pongono qualche questione, è un quinto delle sue entrate. I nostri numeri sono 86 miliardi di PIL, 5 miliardi e 2 di indebitamento, 27 miliardi di bilancio, numeri certamente diversi e migliori di quelli dello Stato. Ancora con questa storia di paragonare il bilancio di una regione col bilancio di uno Stato. Allora vediamo se riusciamo a spiegarlo al Presidente Lombardo e con massimo rispetto anche al Vicepresidente. È un po' diverso il debito italiano. L'Italia deve rifinanziare il suo debito ogni mese sui mercati. Emette BOT, BTP, CTZ e se i compratori non arrivano sale lo spread, aumentano i tassi che dobbiamo offrire. Di conseguenza aumentano le tasse per noi italiani e così via. La Sicilia non emette obbligazioni siciliane, cioè il ragionamento che loro fanno avrebbe un senso se la Sicilia potesse mettere dei bot siciliani, vedremo quale sarebbe lo spread, il rendimento atteso e quant'altro. In realtà questi soldi, cioè i 21 miliardi di indebitamento, non sono 4 lire, caro vicepresidente, perché li dovrà ripianare lo Stato italiano, a meno che non mi diciate che tutti questi 21 miliardi di buco che avete fatto li caricherete sui siciliani. Auguri, perché vuol dire aumentare di decine e decine di volte addizionali IRPEF comunali e regionali. Ma se no, questo ragionamento non ha senso, perché la Sicilia non emette titoli di debito, non può farlo. Un bot siciliano, a parte che vorrei vedere appunto il rating e lo spread, ma non esiste. E comunque il Presidente Lombardo ha detto, ha ridetto, denunceremo chi ha parlato di default. Mentre il presidente del PDL, Alfano, ha detto la catastrofe di Lombardo è sotto gli occhi di tutti ed è un disastro che si completa con l'aggressione verbale inusitata nei confronti di Ivan Lobello che contrasta ogni giorno la mafia. Lì Lombardo ha detto che non si riferiva a Lobello ma in generale a pseudo imprenditori che dovrebbero andare a finire ammazzati, a morire ammazzati. Tra l'altro faccio notare che un'espressione del genere in Sicilia non è il massimo, E comunque voglio dire, il premio impunità o faccia da impunito va obiettivamente al Presidente Lombardo, perché continuare a dire che tutto va bene, madama la Marchesa, con 5 miliardi di buco che ha accumulato nel 2011 e 3 milioni di euro in cassa, secondo quanto risulta sulle 24 ore, no? Hai chiesto 818 milioni di nuovi prestiti, hai contratto quasi un miliardo di nuovi mutui con la Cassa Depositi Prestiti, hai 15 miliardi che tu metti in bilancio, Lombardo, come residui attivi, ossia come voci di crediti che devi ancora riscuotere, ma questi 15 miliardi sono difficilmente esigibili perché vengono messi nel bilancio per dire ma noi dobbiamo avere ancora 15 miliardi, ma tanto lo sai che questi 15 miliardi non li avrai. Su. Bellissima comunque, perché tra questi soldi che la Regione Sicilia deve ancora ottenere ci sono 50 milioni di euro attesi come provento dalla vendita di oggetti sequestrati durante le battute di caccia. 50 milioni. Ma che avete sequestrato? Pallettoni d'oro. E 387 milioni che vengono invocati dal 1980 come rimborso per le calamità naturali di quell'anno. Lo Stato non glieli vuole dare dal 1980. Ok? E tu continui a metterli in bilancio come soldi che ti sono dovuti. Sarebbe come se uno continuasse a mettere in bilancio soldi che gli deve un'azienda fallita che non glieli darà mai, o che gli deve un privato che è morto che anche lì non glieli darà mai. Ma che giochetti sono? Lombardo. Però io vorrei capire anche un'altra cosa, che molto si è parlato della Regione Sicilia, ma si è anche parlato, poco si è detto invece di chi doveva controllare questi conti. Ecco perché ringrazio il professor Massimo Bordignone dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, grande esperto di federalismo. Buonasera professore. Buonasera a lei. Le faccio attendere un attimo, perché Abbiamo anche in collegamento un siciliano che lavora come forestale nella provincia di Messina. Ci ha scritto ieri su Facebook: contattatemi, perché si scrivono molte inesattezze su noi forestali. Grazie quindi a Carmelo Sturiale. Buonasera anche a lei, Sturiale. Buonasera, signor Parisone. Allora, sono un po' emozionato a parlare con lei, la seguo sempre, io sono un appassionato di economia, sono un ragioniere mancato, non ho avuto la possibilità di andare a scuola e prendere il diploma e lavoro con la forestale, sono un 151ista. Ecco, quindi mi dispiace per il fatto che sono un ragioniere mancato, ma io volevo capire una cosa. Noi spesso ricordiamo quanti siano i dipendenti forestali in Sicilia. Sono 28.542, di cui 26.000 precari, costano quasi 700 milioni di euro all'anno. Il problema è che la Sicilia ha più forestali dello Stato canadese del British Columbia e ha, non so, per dare un'idea, è vero che ci sono foreste, boschi, riserve naturali, il Parco delle Madonie, ma insomma la Lombardia ha 460 forestali, 460, la Sicilia 28.000. Praticamente siete come forestali siciliani quasi la metà di tutti i forestali in Italia. Allora, prima accusa, a mio avviso molto sgradevole, che proprio il grande numero di forestali in Sicilia determini un grande numero di incendi in Sicilia, ossia l'accusa, inutile girarci attorno, è che alcuni suoi colleghi possono appiccare gli incendi. Ascolti, mi dica. Se mi fa parlare io gli spiego la situazione, perché quella cosa non è veritiera. Uno, perché nei boschi che sono del demanio praticamente, dove lavorano quelli dell'azienda, perché siamo spartiti in due cose, l'ispettorato che è l'antincendio e l'azienda. Dove c'è l'azienda, nei boschi che è del demanio, gli incendi sono soltanto il 2%. Il 98% degli incendi avviene nei terreni privati, perché noi interveniamo su tutto il territorio. Lei deve pensare che noi qua, io sono a Savoca, distaccamento forestale di Savoca, abbiamo in gestione 22 comuni di terreni privati. Il 98% degli incendi avviene al di fuori del demanio. Nel demanio non ce ne sono incendi, dove ci sono gli operatori che fanno le puliture. Poi le sottolineo e poi le dico una cosa. Io ho due bambini, come tanti altri padri di famiglia che facciamo questo lavoro, e partire nel mezzogiorno a fare salite di 2-3 km sotto 35-36 gradi dietro al fuoco e nelle strade che rischiamo la vita, ci facciamo la croce prima di partire. Se lei oppure qualcuno, qualche televisione vuole venire, le operazioni che svolgiamo noi è come la stessa cosa che io accendo il fuoco e poi vado, so che poi vado a rischiare la vita. In quei terreni privati che non sono più cercati, in quei terreni privati che la gente ha abbandonato le campagne perché non si prende più niente nelle campagne, in quei terreni privati praticamente, poi vengono sfruttati da chi? E questo è il punto interrogativo. Da chi vengono sfruttati ha interesse ad appiccare fuochi. Ci siamo fino a qua, mi ha capito? No. Io non vado con i miei colleghi a rischiare la vita. Questo l'ho capito, ma chi è che ha interesse? Vabbè, chi ha interesse per altri motivi? I privati che li appiccano? Chi ha interesse per altri motivi, sì. Allora, mi dica una cosa però, perché adesso ho le informazioni sul traffico, però vorrei capire, lei quanti giorni lavora all'anno, cioè i suoi colleghi? Queste cifre astronomiche dei forestali, ma qui ci sono delle persone che fanno 78 giorni. 78 giorni? 78 giorni lavorativi all'anno. Io gli ho menzionato anche delle leggi là, fino al 2007 facevamo 51 giornate l'anno. Cosa fa lei nel resto dei giorni? Ah, io faccio 151, ho una garanzia di 151 giornate l'anno, però quest'anno ancora ho fatto una richiesta per 85 giorni, non si sa come va a finire a fine dell'anno. E poi lei ha messo le tarantelle che la regione Sicilia non spende i fondi europei. Ma lei che ne direbbe se con fare dei progetti per bonificare il stesso idro geologico che c'è nella Sicilia e noi saremmo a fare quel lavoro, a chi gli faremmo un torto, anzi che quei soldi ritornano indietro? No, questo è un dato allucinante, io su questo sono d'accordo con lei, nel senso che tra le varie colpe che ha la regione Sicilia, ma non Lombardo, anche Cuffaro, tutti quelli che l'hanno preceduto, no, insomma, C'è anche quello di non saper spendere i soldi comunitari. Pensate che su 13 miliardi che ha ricevuto in 10 anni la Regione Sicilia è riuscita a spenderne, anzi 20 miliardi di fondi europei, ne ha spesi solo il 9%, cioè meno di 2 miliardi in 13 anni, e ne ha, Bruxelles ne ha attualmente bloccati 600 milioni. Ora io dico, lì non c'entra niente lei, ma con 28 mila dipendenti in regione, non riuscite a trovare, oltre ai camminatori, i maestri da sci, da fondo, qualcuno che sappia sviluppare dei progetti per spendere bene questi soldi, e non come sta indagando la Procura di Palermo per il Couscous Fest o le sfilate di moda tra Palermo e Taormina, o il festino di Santa Rosalia, o la ristrutturazione di un bar a Rocca Lumera in provincia di Messina, o la realizzazione del presepe vivente di Agira in provincia di Enna, lasciando stare il Sicilian Open di golf, torneo costato con i soldi comunitari 8 milioni di euro, mazze d'oro, palle d'avorio. Vorrei chiedere un'ultima cosa, fermo restando che nessuno dà la colpa a voi, cioè qui la colpa è della gestione amministrativa di un'isola e dello scambio, diciamola tutta, dai, lo scambio di voti che ha creato questo crack, perché non si capisce perché ci devono essere 450 forestali in Lombardia, dove esistono anche delle Alpi, e 28.000 in Sicilia, 28.000. Allora, le chiedo, lei cosa fa nel resto dell'anno quando non lavora? Nel resto dell'anno quando non lavoro? Perché dice che riesce a fare 150, se va bene, però ne ha fatti 81 giorni di lavoro. Che cosa faccio? Praticamente ho la disoccupazione, qualche sussidio che mi dà mia mamma e mia moglie che fa qualche supplenza. Lei ha paura di non ricevere più gli stipendi? Cioè le dico soltanto una cosa, perché parlate di lavoro nero, no? Qui non esiste nemmeno il lavoro, non c'è il lavoro. Di nessun colore, dice, né bianco né nero. Non c'è non nero, non bianco, non rosso. Io ho dei nipoti che hanno quasi 30 anni e sono a carico dei suoi padri, qua non c'è il lavoro. No, su questo non ci sono dubbi. I tassi della disoccupazione al sud dei giovani sono impressionanti, si arriva al 33%. Però mi dica una cosa, mi scusi, lei teme per il suo stipendio? Cioè si fida quando Lombardo dice la regione è ben amministrata, i conti sono in ordine, siamo messi meglio dell'Italia? Certo, io temo per il mio stipendio, sia a livello per la situazione della regione Sicilia, seguo molto lei anche per la situazione italiana. Io ho 45 anni, dove dovrei andare? Dove vado? Io ho due bambini piccoli. Lei che cosa farebbe a posto mio? Dove se ne andrebbe? All'estero. Me ne vado all'estero con due bambini piccoli? Io ci ho provato, sono salito a Verona una volta. Lo sai che non è proprio estero, però va bene. Anche. Lo sai che cosa mia moglie per fare una supplenza quanto mi ha costato? Ho portato 2.500 euro da casa. Pagavo 450 euro di affitto e più le altre spese, luce, gas e riscaldamenti. Dove vado io a 45 anni? Mi buttate in mezzo alla strada, a me e tanti altri padri di famiglia? No, no, ma guardi, la soluzione non può essere, a mio avviso, perlomeno parlare. Guardi che siamo tutti padri di famiglia, che abbiamo figli, e prima magari di misurare qualcuno, di misurare certe parole, di dire noi siamo dei lavoratori, vogliamo lavorare. Non siamo dei padri. No, guardi, su questo non ho dubbi, però nessuno sta proponendo qui di ridurre in maniera brutale con una macelleria sociale i dipendenti della regione. Bisognerebbe fare però un piano serio, mantenuto, non che alle prossime elezioni si ribalta tutto, di riduzione graduale. Cioè un conto è eliminare 10.000 dipendenti in 10 anni e un conto è eliminare 10.000 dipendenti in un anno, lo capisce anche lei. Nel secondo caso, o meglio nel primo caso, sarebbe uno snellimento graduale della regione. L'importante è che poi, cambiando il nuovo governatore, la nuova maggioranza elettorale, non riparta tutto come prima. E arrivederci, buonanotte madama la Marchesa. Sturiali, io le auguro veramente in bocca al lupo. A lei, mi dica. Le volevo dire una cosa. Qua noi siamo dei stagionali a progetto, fanno i progetti per lavorare. Come fanno... la mia categoria, che siamo l'antincendio boschivo, nelle altre regioni sono passati tutti con la protezione civile. Perché non ci passano anche a noi con la protezione civile, a tutti, visto che noi facciamo anche i lavori di protezione civile? Ho capito, ma... Noi siamo andati a pulire le case a Giampilieri, siamo andati a aiutare a tutti là. No, è che siete tantissimi. Come ci sono un sacco di lavori da fare qua. Ci sono la pulizia dei torrenti, l'incanalazione dell'acqua, la pulizia delle stradelle, la pulizia delle strade. Ha capito? Ci sono i lavori, ci sono i progetti da fare. Sì, ma per questo che studiare, ma guardi che la lotta non può essere una lotta tra poveri, la responsabilità di chi non sa spendere i soldi che i 20 miliardi che in 13 anni ha dato alla Regione Sicilia, ha dato Bruxelles alla Regione Sicilia, non è vostra, è degli amministratori. Io però vorrei sentire su questo Bordignon per una cosa molto secca, professore. Ma è vero che questa autonomia è intoccabile? Punto. Ma insomma, lo statuto della Regione Siciliana è stata, diciamo così, votata ancora prima della Costituzione italiana, quindi per certi aspetti non è anche chiaro come potrebbe essere modificata. Ma quello aspetta l'aspetto giuridico. Poi nei fatti, secondo me, ci sono gli spazi per intervenire. Poi, come dicevo nell'articolo pubblicato oggi, sa, alla fine chi paga comanda, siccome in larga misura nella Sicilia chi paga è ancora lo Stato nazionale, avrà pure il diritto di richiedere questi soldi. Perché a sentire Lombardo sembra che sia uno Stato autonomo, che hanno un bilancio messo meglio di quello italiano, che si... ma i soldi li dobbiamo mettere noi, Lombardo. Comunque, prego, Bordignon. No, lì ci sono, secondo me ci sono diversi aspetti che vanno un po' distinti. La prima situazione è com'è la situazione finanziaria della Regione Sicilia al momento. Io, sinceramente, una risposta precisa non gliela so dare. Certo, i dati sembrano molto preoccupanti. È vero che 5 miliardi di debito a fronte di un bilancio di 20 miliardi di entrate non è granché. Se uno paga gli interessi, c'è un mutuo, buonanotte. Però il vero problema sono 21 è che miliardi, che questi equilibri contabili che ci sono, gli avanzi di amministrazione, siano basati, come accennava lei, su residui attivi di difficile, ma figurati, ma dai. Di difficile cassa. Quindi può essere che la situazione in realtà si stia andando avanti. Cioè, allora, Lombardo dicesse che prende una società di revisione, che gli guarda dentro i conti, andiamo a vedere veramente di questi soldi quanti li puoi ancora incassare, perché i 380 milioni di euro che aspetti per le calamità naturali dal 1980, certo, non li vedrai più, non li puoi mettere a bilancio, no, certo. Siamo capaci tutti così. Sì, lì il problema è che poi, come ripeto, era una cosa anche divertente, secondo me questo rapporto della Corte dei Conti andrebbe letto, perché è veramente un pezzo interessante, in cui poi alla fine la Corte dei Conti dice va bene, approvo il bilancio, però se uno lo legge ci sono tutta una serie di riferimenti. Parla pure dell'avanzo di amministrazione, lo definisce una voce contabile tanto suggestiva quanto discutibile, che è tutto. Sì, bene. Sarebbe bello sapere dal presidente Giampaolino, ma perché cavolo avete approvato il bilancio della Regione Sicilia se dentro poi se ne scrivete peste e corna? Boh. No, perché appunto secondo me lì c'è anche un problema di controlli generali, cioè no, questi sono controlli di carattere formale giuridico, finché c'è un revisore dei conti che dice che questa voce può essere ancora considerata, allora il presidente della Corte dei Conti approva e poi sì, però a questo punto facciamo un'analizzata da qualcuno che ci dica veramente perché lei citava i 5 miliardi di buco per il 2011, ma sono 21 miliardi quelli che non risultano di debito accumulato dalla Regione Sicilia. Li facciano analizzare da qualcuno che sa fare i conti. Io, guardi, veramente Sturiale, le auguro un bocca al lupo, ma non per una forma di demagogia, perché voi non avete nessuna responsabilità di come male è stata amministrata la vostra regione. Grazie quindi a Carmelo Sturiale, al professor Massimo Bordignon, che riavremo ospite, perché su questo tema dell'autonomia, Bordignon, bisogna anche un po' capirsi. L'autonomia non è anarchia, fale che cavolo vuoi, tanto paghiamo poi noi. Grazie a tutti e due, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.